essere tornata e le portava un fiore. Quando finiva il lavoro correva da lei, tutto d'un fiato faceva tre piani di scale per regalarle la rosa più rossa che c'è. Aspettava puntuale vicino alla porta, metteva il fiore in un vaso lì sopra il comò, poi gli serviva la cena e riempiva il bicchiere, lui cominciava a mangiare, dormiva di già. Fortunato, pensava, ho trovato un bel fiore, meglio di me saprà dire alla mia donna che, anche se a sera son stanco e so solo dormire, le voglio bene lo stesso e con lei sono un re. Fu per quel cambio di turno di giovedì scorso che gli riuscì di tornarsene a casa alle tre. Comprò due rose di corsa, volò per le scale, in anticamera vide un cappello e un paltò. Ha ripescato nel fiume vicino alla chiusa, là dove l'acqua cadendo fa tanto rumore. Accanto a lui galleggiavano tristi due rose che non sarebbero andate a finire sul colore.